English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Per il nostro appuntamento settimanale con la lingua inglese questa sera scopriremo dei blogger molto influenti, perché sono blogger famosi negli Stati Uniti e quindi famosi in tutto il mondo. L'ispirazione ci è venuta da un servizio che si trova nel nostro English 24 in edicola, dedicato a Arianna Huffington. Arianna Huffington è probabilmente la donna più influente attualmente nei media americani. È di origine greca, lo sentiremo anche dal suo accento. Ha fondato e dirige il sito Huffington Post, che si occupa di politica, stili di vita e gossip. Da quando aperto nel 2005 è diventato il più grande fenomeno nelle news americane. Ma sentiamo proprio la voce di Arianna Huffington. I think our site provided basically both through the aggregation of news and multiple blogs. We have 2,500 bloggers and sort of right of the moment look at what was happening every day in the campaign. Not always favorable. Clearly, we were for Obama. Some of the reporting on the site, especially by off-the-bus journalists all around the country, was not beneficial to the campaign. But the fact that we had a clear stance editorially that Obama was the right choice for America meant that our headlines, our featured blogs, tended to go in that direction. Arianna Huffington ci ha parlato un po' di quello che è stato il suo ruolo dei blogger in generale durante la campagna elettorale presidenziale negli Stati Uniti. Abbiamo detto l'accento di Arianna Huffington, che la rende allo stesso tempo un po' buffa ma anche molto comprensibile. Sì, sicuramente ha studiato l'inglese in Inghilterra, probabilmente, o comunque con insegnanti britannici, ha questo accento, e però poi ha, soprattutto sulle R, no? Lo sentiamo, c'è qualcosa di mediterraneo nel suo modo di parlare inglese. Del resto questo ancora una volta dimostra che l'America è il paese delle opportunità, come abbiamo detto, una signora greca di origini che non parla perfettamente, o comunque che parla con un heavy accent, come dicono loro, thick accent, un accento spesso, eppure è diventata molto influente. Diciamo che il suo successo è arrivato in un certo senso nel momento giusto, il successo suo e dei blog. È proprio forse questo lo spirito del citizen journalism, cioè avere quel right of the moment look, nel senso che è un look proprio che dà l'istante, che fotografa quell'istante, proprio quell'istante. È chiaro che se tutti diventiamo giornalisti c'è un giornalista in ogni punto del pianeta, e quindi poi naturalmente il discorso è molto ampio, però c'è la possibilità con 2500 bloggers, quindi con 2500 bloggers selezionati naturalmente da lei, avere la persona giusta nel posto giusto al momento giusto che dà la notizia. Non c'è una pretesa di imparzialità, lei lo dice, clearly we were for Obama. We were for Obama, quindi lei lo dice, e dice anche però che tra tutti questi bloggers ce n'erano anche alcuni che were not beneficial to the campaign, cioè non erano non davano un beneficio, quindi non parlavano pro Obama, o magari mettevano in risalto delle contraddizioni, però c'era un clear stance editorially, quindi chiaro, clear stance è il punto in cui si è, la posizione, quindi la posizione editoriale era chiarissima. E qual era? Che Obama was the right choice for America. Yes, we can. Tutto tendeva a quella direzione. Perciò in generale, appunto, mentre c'era spazio per tutti, perché poi questo è lo spirito di un sito, soprattutto di un news aggregator, c'era poi le headlines, cioè i titoli, o comunque i titoli principali del sito, quelli sulla homepage per intenderci, o magari i featured blogs, cioè quei blogs che sono featured nel senso che vengono evidenziati. Feature è un'altra di quelle parole che possiamo dare in mille modi diversi. Comunque, quindi i blog evidenziati tended to go in that direction, cioè pro Obama. Abbandoniamo Arianna Huffington e scopriamo un altro blogger famosissimo. Si chiama Michael Arrington ed è il fondatore del blog tecnologico TechCrunch. Qui è ospite del talk show di Charlie Rose e spiega secondo lui qual è il più grande problema che riguarda la tecnologia. Identity theft. It's becoming a much bigger problem in all over America, where our identities are stolen, usually on the internet. Some people still go through trash and still go through the mailboxes, but it's so easy to steal identities on the internet. And then they're exploited on the internet. There's actually exchanges where people can buy credit cards for a few cents. They can buy a bank account for a few hundred dollars. And literally, and there's exchanges where people can do this. And the U.S. has done very little to combat this. It's a huge problem with just everyday Americans having $6,000-$10,000 cost to sort of clean up their credit and clean up their life once their identities are stolen. And should the government do more to criminalize this or protect individuals' data on the internet? And if they should, you know, what is it they should do? All right, what else? What else? Cos'altro? Non lo scopriremo perché abbiamo tratto solo questo brevissimo estratto dal talk show di Charlie Rose. Michael Harrington, che ha un accento ben diverso da quello di Arianna Huffington, ci preoccupa subito tantissimo. Qual è il più grosso problema secondo lui? Ecco, questa è una cosa con cui noi non siamo familiar, cioè non è una cosa di cui si parla in Italia perché il problema di fatto non esiste. Invece in America l'identity theft, cioè il furto di identità, it's becoming a much bigger problem. È l'altra faccia del non essere burocratizzati come lo siamo noi, no? Noi che dobbiamo mostrare il certificato di esistenza in vita quando andiamo a fare qualcosa in comune. In America questa burocrazia non c'è, il risultato però è che è anche molto più facile spacciarsi per qualcuno che non si è. Basta avere il social security number o qualche altro numero che identifica in realtà un'altra persona che non sei tu. E come si fa a rubare? A steal? Identities are stolen. Are stolen, quindi lui dice usually on the internet, altra faccia della medaglia di internet, ci ha connessi tutti, ma come sappiamo ha reso anche molto più facili alcune operazioni illegali. Infatti some people still go through trashes and mailboxes, cioè ci sono ancora quelli che lo fanno vecchio stile, cioè passando al setaccio i trashes, cioè la spazzatura, e le cassette delle lettere. Però in realtà il modo più semplice è on the internet. So easy, è facilissimo. E cosa succede? Gli americani usano tantissimo, ad esempio, le carte di credito, e in questo caso, insomma, il furto d'identità è ancora più pericoloso. Ecco, sappiamo tra l'altro che appunto ci sono poi i siti, la pirateria non soltanto di musica, ma anche degli oggetti, delle borse di moda, ci sono dei siti specializzati. È quasi impossibile farli chiudere. Quindi, dice questo signore, ci sono anche dei siti where you can buy credit cards for a few cents, quindi puoi comprare una carta di credito per pochi centesimi. O magari anche un bank account, un numero di conto corrente per un few hundred dollars. E naturalmente una volta che hai fatto questo, la persona invece che possedeva quella carta di credito o quel conto corrente deve poi provvedere, quando lo scopre, perché magari non lo scopre subito, a mettere una pezza a questi danni che ha fatto l'intruso, il ladro, il thief of identity. Huge problem. Huge problem, e tra l'altro secondo lui the US has done very little to combat this. Purtroppo, certo, the US, cioè the United States, quindi il governo degli Stati Uniti, ha fatto molto poco per combattere questo fenomeno, però siamo sempre lì, lo sappiamo tutti, su internet è difficilissimo colpire singoli siti perché si perdono in quel gigantesco World Wide Web che appunto è pieno di, insomma, è un labirinto, non è facile trovare qualcuno in un labirinto. Quindi un problema vastissimo che il governo dovrebbe combattere, infatti lui qui utilizza lo should che ogni tanto noi troviamo. E anche in questo caso, come settimana scorsa, non so se vi ricordate, il nostro Barry Levinson, che non sapeva come Hollywood sarebbe stata così influenzata da Obama, anche in questo caso non sa Charlie Rose esattamente, però sicuramente the government should do something. What is that they should do? Well, I don't know, e non è del resto neanche lui che dovrebbe, non è lui appunto, lui fa altro, lui fa un blog e segnala i problemi, non li deve risolvere. E questo Michael Harrington è arrivato solo secondo nella classifica delle 25 stelle dell'online della rivista Forbes. Perché? Perché il primo è stato, per l'ennesimo anno, Perez Hilton. All'anagrafe si chiama Mario Lavandeira, ovviamente il nome d'arte è copiato un po' e ricalcato su quello di Paris Hilton, ha un famosissimo sito di gossip. Lui è veramente sopra le righe, sentiamolo in questo talk show. Do you get into trouble with them? Do they give you a hard time about it? Do people, you know, say mean things to you? They do, but you know, it's okay. I dish it, I could take it. Right. I haven't had any run-ins with anyone like Tara Reid recently. Right. But that's because she's in rehab. Yeah. Which I did have a run-in with her, and I talk about it. Really? Yeah, she threatened to throw me in a pool. And I kind of. That's her way of showing affection, though, I think. I wish she would have, because that would have been an even better story. Yeah, I know. That's Tara Reid threw me in the pool, and then I would have cursed, because, you know, my phone would have died, and my camera. Oh, it would be, your hair would be all messed, you'd be all wet and everything. It would be fantastic. We should throw Perez in a pool, maybe. Beh, insomma, l'abbiamo detto, è molto sopra le righe. Se voi andate a cercarlo su internet, dove appunto il suo sito di gossip, anche fisicamente è molto particolare, abbastanza buffo, spara a zero su tutti. Qualcuno appunto può arrabbiarsi, quindi gli chiede do they, tutte le persone che tu prendi di mira, give you a hard time. Hard time vuol dire letteralmente un tempo difficile, però noi lo tradurremmo come ti mettono in difficoltà o comunque ti fanno sentire male, o comunque comunque magari ti perseguitano, anche ti vengono a picchiare con una mazza da baseball, perché ne dice talmente tante su tutti che forse a volte, più che appunto rispondergli magari per le rime, lo vanno a cercare. Poi vedremo come. They do, but it's okay, lo fanno, ma vabbè, va bene lo stesso. Ammette probabilmente di essere molto mosca zezzè e quindi insomma di meritarsi queste reazioni. Qualcosa gli è successo con un'altra ragazza che spesso finisce nei titoli dei giornali, che è Tara Reid. Cosa gli ha combinato? Sì, lui dice: ma ultimamente I haven't had any run-in. To have a run-in, che letteralmente è correre, sbattere uno dentro l'altro, cioè avere uno scontro magari verbale o magari non solo verbale. E naturalmente c'è poi la battuta subito, ma la ragione non è che non ci siano motivi perché io e lei ci si scontri, ma è that's because she's in rehab, cioè lei è in riabilitazione, cioè in una clinica, a disintossicarsi. Ecco, noi diciamo disintossicarsi, rehab, che è naturalmente la short form di rehabilitation, sono tutte queste, è il grande ombrello sotto cui ci sono queste cliniche per disintossicarsi dall'alcol, dalla cocaina, dai farmaci, quello che è. Cosa gli ha combinato Tara Reid? No, perché l'ultima volta invece, that they had a run-in, she threatened to throw me in a pool, dice lui. Cioè l'ultima volta che effettivamente ci siamo scontrati, ha minacciato, to threaten, to, quindi minacciare di buttarmi, to throw me in a pool, di buttarmi in una piscina. Però l'intervistatore a questo punto, visto che Perez non riesce a trattenersi dal dire comunque le cattiverie, cosa dice? Ma si dice, we should throw Perez in a pool, quindi dovremmo buttarlo in una piscina, anche perché Perez stesso aveva detto, in un certo senso, I wish she had, sempre la Tyra, mi sarebbe piaciuto che mi avesse davvero buttato in piscina, perché avrebbe avuto una much better story, una storia molto più bella da raccontare sul suo sito di gossip. Andatela a cercare, Perez Hilton. Per il nostro tempo radiofonico dobbiamo fermarci qui. Io ringrazio Valeria Bernardi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'auguro di una buona serata.